Buongiorno Palestina, anche questo mercoledì, come ogni settimana alle 19, siamo in diretta per parlarvi della Palestina e tutto quello che i media e le TV solitamente non vi fanno sapere. E oggi il nostro Claudio, conduttore ufficiale di questa trasmissione, non sarà presente a causa di un'influenza. E noi approfittiamo comunque per augurargli una pronta guarigione. Pronta guarigione a Claudio. Allora, io sono qui, sono qui in studio e con noi ci sono, con me ci sono Marina, che conoscerete forse perché ha già partecipato recentemente a una trasmissione sui viaggi di conoscenza, e Ivana, che insieme ci porteranno con le loro voci direttamente in Palestina. Questa volta ad Hebron, per parlarci della loro esperienza, delle loro impressioni, sensazioni e anche come il viaggio abbia stimolato il loro il desiderio di approfondire la conoscenza di questo popolo. E lascio la parola a Ivana e parto subito però con una domanda. Quando siete andati in Palestina, Ivana, perché la città di Hebron ti ha colpito più di altri luoghi? Se è stato così, ovviamente. Allora sì, Hebron mi ha colpito perché nel suo piccolo rispecchia, ingigantendole, tutte le situazioni che avevamo visto nel nostro viaggio in Palestina. Per quello che ho potuto vedere, in Hebron sono presenti tutte le assurdità, tutte le idiosincrasie di questa complessa e complicata realtà. E si può dire che è il risultato di una storia traumatica, violenta, e la sintesi di quella che è la difficile coesistenza di due popolazioni e del perenne conflitto che caratterizza tuttora i rapporti israelo-palestinesi. Tutti i luoghi che abbiamo visto, dai luoghi sacri alla presenza massiccia dei checkpoint, fino alle strade che sono vietate al passaggio dell'uno o dell'altra popolazione, parlano di divisione e di odio insuperabile. Senti Ivana, ma intanto dove si trova esattamente Hebron? Allora, Hebron si trova nei territori occupati, in Cisgiordania, ed è una delle maggiori città arabe di tutta la West Bank. Si trova a sud di Gerusalemme, al confine del distretto di Betlemme. Per quella che è l'importanza religiosa della città, è sfruttata ideologicamente sia dagli israeliani che dai palestinesi. Infatti, per entrambe le religioni, è il luogo dove Abramo ha comprato la grotta dove poi è stato seppellito, e dove è stato seppellito anche Isacco e Giacobbe con le loro rispettive mogli. Attualmente a Hebron, nel luogo dove si presume che sia stata comprata questa grotta, è presente un edificio di pietra che per gli ebrei è la tomba dei patriarchi e quindi è una sinagoga, mentre per gli arabi è la moschea, è chiamata Moschea di Ibrahim. Noi siamo arrivati ad Hebron alla conclusione del nostro viaggio in Palestina e, come ho già detto, arrivati lì è tutto ingigantito e l'occupazione a Hebron si percepisce proprio nell'aria che si respira. Io l'ho percepita anche nel silenzio che c'è in certe zone, per esempio quando si arriva a Shoada Street, che era l'arteria principale, il centro commerciale della città, e adesso è vuota, è interdetta al passaggio dei palestinesi. E questo è una cosa che colpisce. Allora, faccio adesso un piccolo inquadramento storico, molto sinteticamente. Vi dico che Hebron, chiamata anche in arabo Al-Khalil, affonda le sue radici nella storia biblica degli ebrei e anche nella storia dei musulmani. Nel 638 la città è stata conquistata dagli arabi e successivamente dai crociati nel 1099, per ritornare poi sotto il dominio musulmano nel 1187. Nel 1500 viene assorbita nell'impero ottomano, sotto il cui dominio rimase fino agli inizi del 1917. Dopodiché Hebron fu occupata dall'esercito britannico e il mandato britannico terminerà fondamentalmente nel 1947. Dopo la prima guerra arabo-israeliana nel 48-49, Hebron viene annessa alla Giordania e dopo il conflitto dei sei giorni del 1967 fu occupata da Israele. Allora, parlando di divisioni, si può dire che anche i massacri che vengono ricordati sono da entrambe le parti. Ogni popolo ne ha uno nella propria memoria. Gli israeliani ricordano il massacro di Hebron con l'uccisione degli ebrei nel 1929, mentre i palestinesi ricordano il massacro di Hebron per il duro attacco per mano di un colono israeliano che è entrato nella moschea di Ibrahim nel 1994 ha cominciato a sparare all'impazzata. Entrambi questi massacri hanno segnato la vita degli abitanti di questo luogo, rendendo sempre più rabbiosi e determinati i conflitti. Diciamo che fino al 1929 le due popolazioni convivevano più o meno pacificamente, poiché stanziavano lì da diverse generazioni entrambi. Il motivo del massacro di Hebron nel 1999 sembra sia dovuto a delle tensioni nate a Gerusalemme e da delle voci che si erano sparse dell'uccisione di due arabi, e questo sembra abbia scatenato l'assalto alle case degli ebrei. Dopo questo fatto, la difesa delle comunità ebraiche divenne prioritaria per il protettorato inglese, che, diciamo, incapace anche di gestire la situazione, nel 1936 fece evacuare le famiglie ebree residenti e vietò loro l'accesso alla città. Questo è stata una ferita che è rimasta aperta per gli ebrei ortodossi, e dopo la guerra di sei giorni, quando Israele assunse il controllo di tutta la sponda ovest del fiume Giordano, con un escamotage riuscirono a rientrare ad Hebron e poi riuscirono a fondare uno dei primi insediamenti ebraici in Cisgiordania. Qual è stato questo escamotage? Nel 1968 un piccolo gruppo di ebrei ortodossi, per festeggiare la Pasqua, chiese e gli fu concesso il permesso di prenotare un albergo per quattro notti. Guidati dal rabbino Moshe Levinger, installarono una bandiera sul Park Hotel e non si mossero più dalla città. Successivamente sono stati raggiunti anche da altri coloni e adesso vivono, anche attualmente vivono, blindati nel cuore della città araba. E questa era la nascita di Kiryat Arba? Sì, esatto. Ecco, ma i blindati, gli ebrei blindati, non sono in realtà anche e soprattutto i palestinesi costretti a vivere a Hebron in delle gabbie? Sì, sicuramente, però si può dire che vivono praticamente in gabbia entrambe le popolazioni, cioè come se ognuno è prigioniero dell'altro. Scusa Ivana, cioè Marina voleva dire qualcosa. Marina? Sì. Allora, volevo dire solo una piccola cosa su Kiryat Arba. Allora, Kiryat Arba era stata già occupata la zona su cui c'è l'insediamento di Kiryat Arba attualmente, era già stata occupata dagli ebrei almeno un paio di volte, e però furono evacuati definitivamente nel 1936. Furono evacuati e se la legarono al dito, devo dire. Allora, quando occuparono l'hotel, il Park Hotel, il rabbino ed i suoi amici, quando occuparono l'hotel, Non, dunque, loro rimasero nella città di Hebron occupandolo per, credo, 2, 3, 4 anni probabilmente, finché il governo israeliano decise di cedere l'ex insediamento di Kiryat Arba e di farli insediare lì, perché era nella, diciamo, nella periferia di Hebron. Perfetto. Andiamo avanti. Andiamo avanti nel... Sì, diciamo che da allora si è visto espandersi sempre di più questo insediamento, fino a che ad oggi è diventato un comune con quasi 10.000 abitanti, con all'interno è autosufficiente, per cui c'ha tutte le istituzioni sanitarie, educative, centri commerciali, banche, eccetera, eccetera. C'è cioè da dire anche che l'insediamento è visto anche in maniera controversa, perché viola la quarta convenzione di Ginevra sul trasferimento di popolazione civile di una potenza occupante in un territorio occupato. Però, come sempre, gli italiani se ne fregano. Vabbè, è il problema relativo a tutti gli insediamenti nella Cisgiordania. Sì. Nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e a Gerusalemme Est, che violano la quarta convenzione di Ginevra, e quindi non ci dovrebbero essere, teoricamente dovrebbero comunque essere i nostri, però non va così la politica per ora. Diciamo che anche i coloni di Kiryat Arba e anche quelli all'interno di Hebron sono ritenuti quelli più ortodossi e anche quelli più violenti. E non è un caso che proprio a Kiryat Arba risiedesse Baruch Goldstein, che è l'autore della seconda strage di Hebron. A questo punto facciamo un breve intervallo musicale e poi riprenderemo la trasmissione con un evento, un massacro avvenuto proprio ad Hebron, quasi subito dopo gli accordi di Oslo del 1993. على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني adesso del massacro avvenuto ad Hebron nel 1994 per mano di un colono, Goldstein, che entrò in moschea e, sparando all'impazzata, uccise 30 musulmani che si erano riuniti in preghiera. Dopo questa strage viene imposto il coprifuoco per 2 mesi e si instaura un clima di ostilità, di sospetto e di paura l'uno contro l'altro. Il massacro di Hebron, oltre ad essere un atto di rappresaglia al fine di provocare più morti possibili, è un evento importante proprio perché è accaduto all'indomani degli accordi di Oslo del 13 settembre del 1993, nei quali Arafat e Rabin stabiliscono il mutuo riconoscimento di Israele e dell'OLP, oltre anche del ritiro da parte di Israele da Gaza e da Gerico. Questo ha provocato, questo massacro ha provocato delle tensioni molto forti e gli scontri sono diventati sempre più cruenti e i controlli si sono sempre più intensificati, fino a che lo Stato ebraico e l'autorità palestinesi nel 1995 firmarono un accordo, il protocollo di Hebron, con il quale la città fu divisa in due settori. I due settori sono H1 e H2. H1 sono 18 km quadrati che sono sotto il controllo dell'autorità palestinese e vedono 115.000 residenti palestinesi. H2 invece è un'altra zona che corrisponde al 20% della città ed è sotto il controllo dell'esercito israeliano. Nella città vivono, in questa parte della città vivono 40.000 palestinesi e circa 800 coloni ebrei. E è, come essendo sotto il controllo israeliano, è in mano ai militari. Ma scusa, ma se i coloni sono così pochi rispetto ai palestinesi, perché c'è questo clima di tensione, questo clima di paura anche da parte della popolazione palestinese? Allora, i coloni di Hebron sono considerati tra i più aggressivi e diciamo che Hebron, proprio per l'importanza religiosa che ha, è considerata come una roccaforte da mantenere e quindi i militari proteggono in maniera massiccia i coloni che vivono all'interno della città. E si può dire, anzi, è l'unica, Hebron è l'unica città dove l'insediamento è all'interno della città e non esterno come tutte le altre colonie in tutta la Palestina. La separazione della città si rispecchia anche nello stesso santuario. Infatti lo spazio è diviso in due, è stata creata sia una moschea che una sinagoga. E la zona dove si trovano i sepolcri dei patriarchi, che si sviluppa all'incirca in 4 metri di lunghezza, è divisa da dei pannelli di vetro antiproiettile, così che può essere vista e venerata direttamente da entrambe le due comunità. C'è da dire che la parte musulmana è aperta a tutti i palestinesi, sia musulmani che cristiani, e a tutti i turisti, a meno di ebrei, mentre la sinagoga è solo per gli ebrei israeliani e per i turisti non musulmani. Scusa, si può dire anche quindi che c'è una discriminazione anche tra gli ebrei, cioè gli ebrei, come tu hai detto, cioè la maggior parte degli ebrei possono entrare in sinagoga. Dagli ebrei e dagli israeliani, perché in Israele vivono anche gli arabi israeliani, sì, quindi certo, possono, nella sinagoga possono entrare soltanto gli ebrei israeliani, non gli arabi israeliani. Quindi la divisione, la divisione è in questo senso, scusa, l'avevo interpretata in un'altra maniera. Infatti, quindi ancora di più si può parlare di apartheid proprio. Sì. Un'altra cosa da evidenziare è che quando ci sono le feste ebraiche diventa sinagoga, mentre invece quando ci sono le feste musulmane diventa moschea. Peccato che entrambe seguono il calendario lunare, per cui nel caso in cui queste festività coincidano, diventa solo sinagoga. Cosa si può dire ancora su quanto riguarda la parte H2? Allora, praticamente si vede che è isolata da altri cancelli, ci sono muri con filo spinato, torri di controllo, ci sono militari, ci sono ronde, ci sono 20 checkpoint e ci sono alcune zone che sono proprio interdette proprio al passaggio dei palestinesi e in altre zone invece devono essere autorizzati. Ci sono 12 chilometri di strada in cui non è consentito entrare ai palestinesi, nemmeno di guidare, e queste sono le strade che collegano l'insediamento interno di Hebron con la colonia che sta fuori, con Kiryat Arba. C'è anche un chilometro e mezzo di strada che è completamente chiusa anche al passaggio pedonale da parte dei palestinesi. Un'altra cosa che salta all'occhio quando viaggiamo per la città è vedere i negozi chiusi. Infatti ci sono 550 negozi palestinesi che sono stati chiusi per ordine militare. In più altri 1100 che sono stati chiusi per conseguenza indiretta, perché non essendoci più passaggio, quindi non c'è più commercio e quindi è risultato delle misure imposte dagli italiani. Ci sarebbe da chiedersi come l'economia palestinese sopravviva a questa, diciamo così, male, molto male, sparizione, diciamo, dei commerci. Abbiamo visto, per esempio, in Shuala Street, la guida che ci ha portato a giro ci faceva notare le insegne dei negozi e si vedeva che c'erano farmacie, ottici, laboratori, addirittura due ottici vicini, per cui diceva per esserci due attività uguali molto vicine vuol dire che il commercio era presente, esatto, e adesso invece è tutto chiuso, non c'è più niente. Un'altra cosa da porre attenzione è il fatto che sul territorio di Hebron la legge che viene applicata ai cittadini israeliani è quella civile, mentre quella in vigore per i palestinesi è quella militare. Per cui questo significa apartheid, c'è una continua violazione dei diritti umani, perché se i coloni attaccano un palestinese la polizia non può intervenire, mentre lo fa se i palestinesi attaccano i coloni. E quindi anche se in teoria un poliziotto non vuole stare dalla parte dei coloni, però è costretto a farlo. C'è una discriminazione proprio, diciamo, palese. Sì, e poi non solo, ai coloni è permesso anche di portare le armi e quindi di portarle anche dentro gli insediamenti, anche se sono civili loro possono andare a giro con le armi, mentre i palestinesi guai. Ecco, a questo proposito vorrei ritornare un attimo sul massacro di Baruch Goldstein, perché quanto mi risulta dalle informazioni ufficiali il governo israeliano ha condannato il massacro e ha risposto arrestando i seguaci del movimento di cui faceva parte questo Baruch e anche i movimenti affiliati, vietando, almeno così io ho trovato nelle notizie, vietando che i coloni possano girare armati. Cosa che però che mi ha confermato invece che non è vera. No. E quindi, cioè, dopodiché, ecco, sempre ritornando a Goldstein, gli ebrei hanno, gli israeliani hanno respinto la richiesta dell'OLP che tutti i coloni in Cisgiordania dovevano essere disarmati e la creazione di una forza internazionale di pace per proteggere i palestinesi. Queste sono notizie, diciamo così, ufficiali che girano anche in internet, su Wikipedia, eccetera. Nel 99 l'esercito israeliano ha smantellato il santuario che era stato costruito per Goldstein presso il luogo della sepoltura, ma tuttora esiste una lapide che è meta di pellegrinaggio da parte di ebrei. La lapide ha un epitaffio che definisce Goldstein martire, con le mani pulite e il cuore puro. Ed è stata lasciata intatta. Nelle scuole te volevi? Allora, a proposito della questa forza internazionale, che si chiama, il cui acronimo è TIPH, Temporary International Presence in Hebron. No, volevo fare solo semplicemente una piccola testimonianza, perché 2 anni fa, quando era ad Hebron, abbiamo incontrato un italiano che apparteneva a questa forza internazionale, a questa forza di interposizione internazionale. E lui ci parlava, ci diceva che facevano parecchi interventi e rilevavano tantissime violazioni. È notizia di non troppo tempo fa che questa forza, poiché il governo israeliano dice non ce ne sia bisogno, quest'anno è stata smantellata. Quindi da questo anno questa forza non ci sarà più. Io non ricordo quando è stata istituita. Però era comunque una forza che faceva dei report molto interessanti sulla situazione. Facciamo allora un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo con la testimonianza di Ivana. Allora, sì, io ora continuerei parlando di varie cose che abbiamo visto nel nostro tour per la città di Hebron. E di quello che poi ci ha spiegato anche la guida durante questo tour. Si parlava dei checkpoint, ne abbiamo incontrati durante la visita della città. E ci diceva che nel corso degli anni la tecnologia dei checkpoint è molto cambiata, mentre all'inizio i controlli erano solo controlli manuali, poi si sono sempre più affinati fino a diventare controlli elettronici con i controlli con le impronte digitali e poi addirittura con riconoscimento facciale. Invece l'ultima cosa che è stata introdotta sono dei cartelli che vengono con la scritta crossing, come se fosse proprio il confine tra 2 nazioni diverse. Anche poi per puntualizzare l'importanza religiosa di Hebron, è che tra le prime domande che possono essere fatte quando passi da un checkpoint è di che religione appartiene, quindi a seconda della religione ti permettono di andare in un tratto di strada o in un altro. Poi ci sono anche dei checkpoint che sono a distanza di 300 metri, e se un palestinese vuole andare dall'altra parte senza passare dal checkpoint, magari è costretto a fare 5-6 km per andare dall'altra parte. Ci ha detto la nostra guida che chi vive nella zona est è messa ancora peggio, perché a volte per fare 500-600 metri intorno a quest'area sei costretta a fare 16 km. E diciamo che il principio di separazione che adottano gli israeliani nella città è quella di creare delle aree tampone costruite apposta per motivi di sicurezza, per il collegamento tra l'insediamento della città e la colonia esterna. Un'altra cosa che mi ha colpito è vedere in una strada il segno in terra di una linea di separazione, che ci è stato detto che prima c'era un guardrail che separava la parte dove potevano passare i palestinesi, che naturalmente era molto stretta, rispetto all'altra parte dove passavano gli israeliani. Poi, siccome era una forma troppo esplicita di discriminazione e stava creando rumore mediatico, questo, chiamiamolo guardrail, è stato tolto. Però è molto visibile ancora il segno. E ci sono anche delle foto, se si va su internet, dove appunto si vede proprio... Sì, anch'io ricordo questa immagine della strada divisa in due parti, una proprio piccolissima e una striscia appunto, ecco, tanto per rimanere in tema, e che era l'unica che i palestinesi potevano percorrere. A questo punto facciamo un altro intervallo musicale e poi riprenderemo con la scuola. بس الصوت صغير يمكن نحن ولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي أقول بالغني كل شي معقول حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا بالصوت الواحد trasmissione precedente abbiamo parlato di bambini e di scuole per l'infanzia. E qual è la situazione per i bambini a Hebron e per le scuole? Allora, durante il nostro giro ci siamo soffermati davanti a un paio di scuole, una che è vicinissima a un checkpoint, e ci hanno detto che la mattina, tutte le mattine, 130 bambini devono attraversare il checkpoint per andare a scuola. non solo i bambini, anche gli insegnanti e tutte le persone che devono andare dall'altra parte. Per cui pensate a il passaggio per un checkpoint che consta di un tornello, di un controllo da metal detector, da un passaggio in una sala dove si può essere di nuovo controllati, da un altro tornello, 130 bambini più tutte le altre persone, il tempo che possono impiegare. Se i soldati decidessero di perquisire ogni persona, ogni bambino, i tempi si moltiplicherebbero. Di solito non lo fanno, ma le volte che succede si creano delle file interminabili e i bambini tante volte non hanno voglia di stare ad aspettare e quindi si fermano a giocare per la strada o tirano sassi a checkpoint o tornano indietro, esatto. Immagino. E c'è da notare anche una cosa, che anche i soldati che stanno nei checkpoint o che sono a fare controlli sono giovanissimi, hanno 18-21 anni, infatti il servizio militare è obbligatorio per i maschi per 3 anni e per le donne di 2 anni. Per cui vediamo questi ragazzini armati di tutto punto che sono lì a fare questi controlli e che probabilmente vogliono anche dimostrare qual è il loro potere. E qualsiasi pretesto è buono per dimostrarlo. E può succedere che sparano gas lacrimogeni, sparano bombe di suono, pallottole di gomma, a volte purtroppo anche pallottole vere anche contro i bambini. Non solo, a volte viene usata una macchina con una cisterna e con un cannone viene sparato un liquido che è un misto di acqua con sostanze chimiche che dice che è tremendo, è un liquido che puzza tantissimo, insozza le strade e proprio perché contiene queste sostanze chimiche non si può resistere, non si può stare, questo odore rimane per molto tempo. I bimbi quando vedono arrivare questa macchina scappano, però chi guida queste macchine tante volte non può tornare indietro con il pieno carico e quindi spruzza questo liquido dove capita, sulle case, sulle macchine, anche sulle costruzioni governative, sugli ospedali, cioè non si fanno scrupolo di spararlo dove capita. È una cosa tremenda, anche perché appunto come in altri villaggi durante le manifestazioni si sa che questo liquido permane per parecchie settimane, è veramente insopportabile. Sì, è anche irritante per gli occhi, per la pelle, anche per viene molto anche utilizzato durante le manifestazioni per Come deterrente, oltre ai gas lacrimogeni, c'è stato fatto vedere anche un edificio dove c'è la più vecchia scuola di Hebron del periodo ottomano e adesso davanti a questa scuola c'è uno spazio tutto cementato dove prima era uno spazio verde dedicato ai bambini, al gioco dei bambini. Adesso invece è stato costruito un parcheggio per i residenti dell'insegnamento israeliano. Si può parlare adesso anche dell'occupazione delle case. Cioè, abbiamo visto sempre in una piazza dove vicino a questo checkpoint c'è stata fatta, abbiamo notato una palazzina dove spuntavano delle bandiere israeliane e ci è stato raccontato che è una casa che è stata occupata, che più volte sono stati intimati di andare via, di uscire, ma tutte le volte ritornano anche contro la giustizia israeliana che gli intima di lasciare le case, di andarsene. Questi non ne vogliono sapere. Ci ha fatto vedere anche un'altra casa dove anche qui tutte le volte che vengono evacuati i coloni, questi fanno casino, fanno rumore, non se ne vogliono andare ci hanno detto, ci è stato raccontato che l'ultima volta sono andati via tranquillamente e questo è sembrato un po' strano, ma solo perché 3 giorni dopo sono andata a occupare un'altra casa e dopo sono ritornati sempre in questa. E poi fanno il bello e il brutto. La prepotenza, certo. La prepotenza israeliana non ha limiti. Ci parli ora del souk? Esatto. Del souk di... Il mercato arabo. Mercato. Esatto. Allora, l'insediamento dei coloni è stato costruito proprio sopra il souk arabo. E quando noi andiamo per le strade del mercato si possono vedere sopra la nostra testa delle reti che proteggono le persone che abitano sotto e che passano per il mercato dagli oggetti che vengono lanciati dai coloni. Si vede proprio che sopra la rete ci sono delle pietre, bottiglie, oggetti che se non ci fosse stata la rete avrebbero colpito le persone che passavano di sotto. Non solo, queste reti, oltre che sopra la strada, sono anche sulle finestre e sui balconi dei palestinesi, perché anche vengono colpiti anche all'interno delle case. Quindi si può dire che le reti sono messe dai palestinesi per proteggersi dagli israeliani, dagli israeliani che gettano di tutto, che gettano di tutto, comprano le case dal piano superiore, occupano e tirano gli oggetti giù a sfregio. Insomma, la finalità è quella. E diciamo che l'accesso a questa zona che sta in alto è soltanto per gli israeliani. Ci sono dei ponti costruiti apposta per far passare i militari perché controllano la situazione e questi ponti sono utilizzati anche dai coloni apposta per andare a buttare di sotto tutto quello che gli capita. Non sono oggetti, non sono oggetti, anche liquidi, liquami, escrementi vari ci raccontavano, quindi è veramente pesante la situazione. Ed è veramente inquietante la rete. Sì, è inquietante veramente, cioè passare di sotto. Di sotto con la rete sopra. Sì. Io l'ho sempre trovata una delle cose più inquietanti della Palestina. Una sensazione indescrivibile. Ci dovete andare a vedere com'è. Sì. Non ci si rende conto, da racconti non ci si rende conto. Cioè non te ne rendi conto se te lo racconti. No, ci deve andare. Finché non la vivi non ti arriva così forte. E per chi ci abita sempre sarà una sarà proprio una vita è un incubo. Un incubo. Con questo concludiamo la nostra trasmissione ricordandovi però i prossimi appuntamenti. Allora, il 21 all'Affratellamento ci sarà l'inaugurazione di una mostra di foto del viaggio in Palestina e la proiezione del film Arnas Children, mentre il 24 avremo sempre all'Affratellamento racconti di viaggio del gruppo di amicizia italo-palestinese che recentemente è stato in Palestina. E arrivederci al prossimo mercoledì. Arrivederci.